24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Antonio Bassolino, 69 anni, sposato con due figli, laurea in scienze politiche. A chi gli dice che è troppo vecchio per candidarsi come sindaco di Napoli, risponde: alla stessa età di Hillary Clinton e ho corso la maratona di Firenze in 5 ore. Se sarà sindaco dovrà vedersela con il presidente De Luca, con il quale da giovane è venuto alle mani, saranno scintille. È stato deputato, ministro del lavoro con D'Alema, due volte sindaco di Napoli, due volte presidente della regione. Oggi si candida alle primarie del PD per correre da sindaco nella sua Napoli senza essere il candidato ufficiale del partito. È così? Non c'è nessun candidato ufficiale del partito. Ma le pesa? No, perché il candidato ufficiale sarà quello eletto dalle primarie. Okay. Altrimenti non hanno senso. Certo. Senta, giusto. Come la chiamo? Ex sindaco, ex presidente, candidato, come preferisce? Bassolino. Bassolino, la fa sentire più giovane, solo Bassolino. Si può dire che lei è l'esempio lampante che la rottamazione di Renzi è finita? Appartiene a un'altra epoca e per me il termine era improprio, si rottamano le macchine, le persone no. Quindi più che finita è fallita? Appartiene al passato ormai. Senta. Poi parliamo di Napoli, ma intanto ci sono state le primarie a Milano, ha vinto Sala, un uomo della Moratti. Lei è contento? Rispetto il voto dei cittadini milanesi. Ho detto Sala, uomo della Moratti, perché a Milano tre dei quattro candidati sindaci, Sala, Passera, Parisi, sono quasi intercambiabili. È il segno di una trasformazione antropologica della politica, eh? C'erano altri candidati più a sinistra e poi ha deciso il voto dei milanesi. Sì, ma è un passo avanti questa quasi uniformità antropologica di molti dei candidati anche su schieramenti diversi? Io penso che un sindaco debba saper poi riuscire a parlare a tutti i cittadini, ma durante la campagna elettorale un sindaco di centro-sinistra deve fare il sindaco di centro-sinistra. Ma per esempio, che cosa resta per a lei, dentro di lei, del PC, PDS, DS, PD? Stare dalla parte dei più deboli e dalla parte della emancipazione ma per se me uno... sinistra è questo. Ma se uno le dice che è comunista lei si offende? Per nulla, sono perché? Stato militante e dirigente del Partito Comunista Italiano, che è stato un grande partito e pur con tutti i suoi limiti e anche errori io sono fiero di questa storia e vengo da quella storia. Senta, ma cosa vuol dire essere di sinistra per lei? Un po' l'ha detto. Sì, vuol dire che il mondo del lavoro per me è la parte fondamentale della società italiana, ma il mondo del lavoro non solo delle braccia, ma il mondo del lavoro, intendendo anche il lavoro quello intellettuale. Senta, ma Renzi è di sinistra o no, secondo lei? È di centro-sinistra. Senta, centro prevale sul sinistra? È di centro-sinistra. Senta, Renzi si sa non la voleva alle primarie, perché? Ma questo a me non risulta. Ah, non ne avete parlato mai? Mai. Mi risulta che altri dirigenti nazionali hanno cercato di fare in modo che io non potessi candidarmi. Chi? Ma vice segretari, ma appartiene ormai al passato. Poi siamo andati avanti, io sono stato il primo a candidarmi. Va bene. Senta, lei alle scorse elezioni ha votato De Magistris, è vero? Il PD al ballottaggio ha votato per De Magistris. E quindi anche lei? Io non l'ho votato. Non l'ha votato. Senta, cosa dice di lei De Magistris? Beh, la sua collaborazione con Berlusconi ha prodotto il massacro dei rifiuti, che si ricorda il mondo intero ancora oggi. Tanto è vero il Corriere della Sera Nazionale, nel parlare della crisi dei rifiuti a Parigi per lo sciopero dei netturbini, ha detto Parigi come Napoli, ed era la Napoli di Bassolino. Quindi io sono completamente alternativo al trasversalismo del sistema e della malapolitica Bassolino-Berlusconi, tanto per capirci. Duro, no? No, è lui. È lui. E ha fatto il sindaco come ha fatto il PM, cioè male. E quello è il suo livello. Ma le fa paura come antagonista? Lui parla in questo modo perché sa che io sono quello che può batterlo in questo momento a Napoli. Ma cosa ha sbagliato De Magistris in modo irrimediabile, secondo lei? Non fa il sindaco, fa l'agitatore. Il sindaco è un'altra cosa, il sindaco rappresenta tutti i cittadini e lui ha una concezione strana delle istituzioni. Vabbè, io sono un uomo delle istituzioni. Senta. Lui una volta sta con Ingroia e non prende neanche il 3%, poi prende altri piccoli partiti, ma il comune è la casa dei cittadini. Di tutti. Vabbè, sentiremo anche lui. Naturalmente è colpa di De Magistris, l'affittopoli che sta esplodendo anche a Napoli, ne parlano tutti i giornali oggi. È una vicenda grave sulla quale bisogna che vengano fatti tutti gli accertamenti. Non nasce certamente con De Magistris. Ah, ecco, cioè come, 24 euro al mese a positivo. Come sarebbe assurdo, io non lo faccio mai, mettere tanti problemi sulle spalle di De Magistris. Anzi, io in campagna elettorale dirò che bisogna andare non tanto contro, quanto oltre di Magistris. Senta, comunque 24 euro al mese a Posillipo, mica male. Ora le indagini vedranno anche. Ma era così anche ai suoi tempi? Io ho lasciato il comune 16 anni fa, sì. E sono tra quelli che dicono vengano scoperchiate tutte le cose che devono. Senta, ma il peggior difetto di De Magistris qual è secondo lei? L'arroganza. È il suo? Lui guarda le persone mai negli occhi, sopra. È alto. E così, ma tu devi guardare negli occhi le persone. È il segno della sua distanza anche dai rapporti umani con la gente. Ma senta, il suo di peggior difetto qual è? Il mio è che a volte mi dispiaccio molto per rapporti umani, per vicende umane, perché in politica a volte c'è ormai un certo imbarbarimento e questo mi addolora, e invece in politica a volte bisogna essere più freddi. Senta, lei però ha governato per 15 anni a vario titolo senza lasciare eredi, eccesso di narcisismo? No, ma tutti quelli che stanno in campo sono tutti i miei eredi. Anche alcuni che si candidano contro ora di lei. Sì, e tanti altri vengono tutti, non è che vengono dal nulla. Hanno lavorato con me, hanno lavorato con la Iervolino. Perché non aiuta loro invece che candidarsi? Perché in questo momento non ce l'avrebbero fatta contro De Magistris. Ho cercato di spiegarlo in tutti i modi. La politica è anche un problema di tempi. In questo momento a Napoli per vincere non ce la fanno persone che non si sono già affermate pienamente come leader. Ecco, lei nel 93 in piena Tangentopoli fu una felice risposta obiettivamente alla crisi, ma oggi si ricandida perché? Perché c'è una nuova crisi diversa dal passato. Napoli è chiusa in se stessa, non dialoga con Roma, con il governo nazionale. Però è una grande città, invece deve farlo. Ecco, le emergenze del sud però che Napoli rappresenta benissimo sono tutte lì: disoccupazione, fuga dei cervelli, scempi paesaggistici, criminalità anche giovanile, tutto come prima, più di prima. Se è cambiato poco nulla in 15 anni di potere, perché dovrebbe riuscirci nei prossimi 5? Ma la Napoli di oggi comunque, con tutti i guai, non è quella del 1992-1993. E poi io sottolineo che l'Italia intera è un paese fermo e bloccato da 20 anni. Certo. Non solo Napoli, ma l'intero Mezzogiorno e anche il paese. Siamo stati fermi e bloccati rispetto a tanti altri paesi. Ecco, ma non teme di rappresentare proprio il Sud che non cambia mai? Io mi candido proprio perché molti napoletani ricordano Bassolino sindaco e si augurano che io possa tornare a fare diverse cose che feci in quegli anni. Ecco, ma che cosa ha capito che non sapeva prima? Che bisogna anche stare attenti alle persone, e io oggi penso di sapere quello che bisogna fare perché l'ho fatto, e penso di sapere anche quello che non bisogna fare stando molto più attenti. Senta Bassolino, come sindaco è stato amato, come presidente della regione no. Perché? Perché io sono soprattutto il sindaco. Il sindaco ha sbagliato a candidarsi alla regione? Beh, ma c'era il limite dei due sì, mandati. No, sì. Io penso di aver poi fatto bene i primi 5 anni e luci e ombre dopo. Perché? Perché il comune è immediatezza, è sentimento. La regione è un'istituzione strana, non è né il comune né lo Stato che è generale, è un po' sospesa nel vuoto. È meglio toglierle le regioni. e bisognerebbe rinnovarle molto profondamente. Senta, adesso dovrete vedersela comunque con De Luca, l'abbiamo detto nella presentazione. È vero che da giovani funzionari siete venuti alle mani? No, non è affatto no, vero. Questa avete è litigato? Una assoluta discutiamo da più di 20 anni. Per carità. Senta, se sarà eletto saranno scintille con lui o no? Per nulla. Ma io ho dialogato con Berlusconi e considero assurdo, infatti, che De Magistris non dialoghi con Matteo Renzi. Senta, Crozza invece la pensa diversamente sul rapporto fra lei e De Luca. Senta qua. Ho fatto voto a Padre Pio di non parlare di Bassolino. Addirittura. Ho fatto 3 sedute di yoga. Vabbè. Ho preso una dose di sedativo per cavalli per via endovenosa, ma non devo nominare Bassolino. Io, allora, se vuole, non personaggetto insisto. Il cui nome più che alla politica rimanda ai fumetti per ragazzi. Vabbè, ma non... Pippo Pluto e Bassolino. Vabbè, ma non insulti anche lui. Non ne l'uomo parliamo. Che manca ai campani un po' come l'agnello alla Pasqua. Vabbè, sono ma non convinto essere... che Bassolino potrebbe fare qualcosa di buono per questa regione. Sì. Se si trasferisse in un igloo per accudire foche. Ecco, però no, io nei volevo... libri di storia campana non c'è nulla che rimandi al nome di Bassolino. Vabbè. Quindi si sbaglia Crozza, andrete d'accordissimo. No. È molto divertente Crozza, molto. La verità è che De Luca spesso ha polemizzato con me. Lei difficilmente trova invece miei attacchi a lui. Senta. In realtà c'è anche un problema tra Salerno e Napoli, in qualche modo. Vabbè, ok, arriviamo ai campanili. Senta Bassolino, l'ultima infrastruttura pensata a Napoli e non ancora finita è la metropolitana, che è un'idea degli anni 70, poi più nulla, perché? Beh, fu fatto solo un piccolo tratto, fu bloccata in Tangentopoli, io l'ho ripresa in mano alla fine del 1993 e le poche cose buone in questo campo che De Magistris ha fatto sono le inaugurazioni di altre stazioni che erano ormai tutte pronte. Previste. Senta, ma che cos'è che rivendica come espressione diretta dei suoi 15 anni di governo? La metropolitana di Napoli, la più grande e bella opera pubblica italiana. C'è ancora, beh, c'è in gran parte e si può completare entro i prossimi 5 anni. Io faccio il sindaco, mi candido a fare il sindaco anche per completarla. Senta, è ancora fortissima, però l'immagine, ha parlato anche il sindaco, l'immagine dell'emergenza rifiuti. Responsabilità penali non ce ne sono state, e questo è stato accertato, ma politiche amministrative sì, quali? Ma io durante l'emergenza non avevo alcun potere. I poteri erano dei commissari nominati dal governo nazionale. Io ho smesso di fare il commissario nel 2004 e ho fatto tanto per quel termovalorizzatore di Acerra, grazie al quale oggi la situazione è del tutto diversa. E l'ho fatto contro tanti amici di De Magistris che combattevano contro il termovalorizzatore quasi fosse il demonio. Senta, adesso a Napoli c'è un'altra sfida, quella di Bagnoli, che da 22 anni è abbandonata. Perché abbandonata? In parte città della scienza, al di là dell'incendio, ha fatto un bel cammino. Mettiamola in un altro modo. Sì. Il sindaco De Magistris finora non ha fatto nulla per Bagnoli, ma non collabora in nessun modo con il commissario del governo. Ha ragione o torto? E su Bagnoli ci sono stati ritardi non solo di De Magistris, ma anche delle precedenti amministrazioni. Sì. Io sono Però adesso lui non collabora. Lui sbaglia perché ha il dovere di collaborare. Quindi... Per esempio, oggi si riunisce a Roma la cabina di regia su Bagnoli. Non va il sindaco, non va nessun assessore. Assurdo. Il sindaco ha il dovere di sedere a quel tavolo perché rappresenta Napoli, deve fare gli interessi dei cittadini. Quindi nello scontro feroce tra il governo Renzi, il sindaco De Magistris, lei sta con Renzi. Io sto con Napoli e da sindaco la prima cosa che faccio, chiamo e dico: quando riuniamo la cabina di regia su Bagnoli, alla quale vengo anch'io? Ecco, in Europa, nelle aree dismesse dall'ex siderurgia, sono nate città modello, musei, luoghi di aggregazioni, insomma tante cose. A Napoli è impossibile. No, a Bagnoli ora, io spero nell'area ex NATO, può andare la Apple, che è un primo importante investimento. Infatti. La Cisco va a Scampia e può crearsi un polo digitale di economia digitale di grande importanza. Ecco, a Napoli c'è un'industria di successo che è unica in Italia, quella della produzione di lunga serialità di fiction di Un posto al sole. Dura da 20 anni, ha successo, ma è rimasta l'unica. Ecco, Magnoli non potrebbe essere anche una nuova Hollywood? No? Può essere per il cinema e può essere anche come economia digitale. Quello è il futuro, un futuro di moderna industria che sostituisce quella dell'acciaio. Ecco, quindi secondo lei perché la Apple ha scelto Napoli? Per le applicazioni di iPhone, di iPad? Perché punta anche su una creatività diffusa della città, ci sono tantissime esperienze anche di ragazzi molto bravi, poi c'è un Politecnico di grande storia, facoltà di ingegneria e aggiungo anche istituti tecnici superiori come quello di Scampia di grandissimo livello. Senta, Renzi dice che così con la Apple eccetera si combatte l'atteggiamento di vittimismo, pessimismo, rassegnazione, lamentazione tipica del Sud. Riconosce questo atteggiamento in Napoli? Un po' di vittimismo c'è a Napoli, in tutto il Sud, bisogna contrastarlo. Noi dobbiamo partire sempre da noi stessi e ricordare al governo nazionale che poi è doveroso intervenire verso il Sud. Lei dice vorrei che Napoli fosse rilanciata come grande capitale culturale, ma come? Per esempio con la trasformazione di Palazzo Reale in un nuovo grande museo della città, portando lì la parte non farnesiana di Capodimonte e tante altre opere d'arte. Avere Palazzo Reale come un nuovo grande museo completa Piazza Plebiscito e diventa un grande input per tutta la città. Senta, Napoli però, ecco, al di là di questi proclami, dopo 20 anni di governo del centro-sinistra era sull'orlo del fallimento. 1,5 miliardi di debiti, un disavanzo di 850 milioni. Oggi al Comune dicono che nel bilancio di previsione non ci saranno più le restrizioni previste. Insomma, De Magistris è stato bravo coi conti. Ma guardi che negli anni scorsi, sotto De Magistris, il Comune stava per andare di nuovo in dissesto. Però, come successe nel 93, quando io ereditai un Comune in dissesto. Se non c'è stato è perché grazie ad una legge del Parlamento si è stabilita la regola del predissesto e il Comune si è salvato ed è in predissesto. Ma se supererà le primarie, lei, Bassolino, chi teme di più tra i suoi avversari? È una bella battaglia a quattro e nessuno in questo momento è in grado di dire di questi quattro quali sono i due che vanno a ballottaggio. Ecco, ma i 5 Stelle alle ultime elezioni erano il primo partito, lo saranno ancora dopo quarto? Forse lo sono ancora in questo momento, sì, ma meno di un anno fa, e dipende dal candidato. Dal candidato. Ma cosa significa l'incidente di quarto? È stato molto strumentalizzato e ampliato. Io non ho gioito per quell'incidente, lo considero un campanello di allarme per tutti. Per loro che pensavano di essere naturalmente immuni, sbagliando. Invece l'allarme è per tutti e ci dice che bisogna alzare molti anticorpi in più, tutti. Senta, ma lei un accordo col Movimento 5 Stelle lo farebbe? Io faccio un accordo con la città, voglio un patto con la città e quindi ma se servisse? Con tutti quelli che mettono Napoli prima di ogni interesse di partito, anche prima dell'interesse del PD. Con questa linea io vado alla campagna elettorale. Ma nel 2015 a Napoli c'è stato un morto ammazzato a settimana. La città, dice la questura, è fuori controllo. Però De Magistris non vuole l'esercito. Allora? Ci vuole l'esercito? Serve tutto. Militari in un certo numero ci sono già. Il governo vorrebbe aumentarli. Io penso che serve tutto. Servono più maestri, serve più welfare serio, ma servono più militari a presidiare edifici pubblici di modo da liberare più poliziotti e carabinieri nelle indagini contro la criminalità organizzata. Senta, però poche settimane fa a Scampia sono state cancellate dal percorso dei pullman due strade per non passare in quello che si chiama il Grand Canyon del terrore, la resa dello Stato. So bene, l'ho denunciato io perché io sto in campagna elettorale, vado casa per casa, questa è la campagna elettorale mia e so che lì non arrivavano pullman. Non passano per e stamattina quello. Aggiungo pure che a Soccavo alle 7 di sera gli autobus non possono più passare perché la camorra che fa spaccio di droga all'aperto vuole che non ci sia neanche un pullman con persone che salgono e scendono. Però senta, a Napoli ci sono decine di ragazzini fuori controllo, senza regole, che terrorizzano i quartieri e fanno fuoco a 13 o 14 anni. Ecco, ma come pensa di arginarlo questo fenomeno? È il grande dramma della città, che De Magistris cerca di mettere in secondo piano in questo momento, ma fa male, perché in gioco il futuro della città. Ecco, ma certamente... Noi abbiamo bisogno di scuole aperte anche di pomeriggio, abbiamo bisogno di un contrasto alla povertà, il governo sta cominciando a fare qualcosina, ma è molto poco ancora. C'è bisogno di avere più impianti sportivi, più strutture culturali, ricreative, e poi assieme a questo c'è bisogno di più poliziotti, più carabinieri. Senta, padre Alex Zanotelli, che ha trasformato la chiesa di San Vincenzo nel punto di riferimento del rione Sanità, dice: viviamo su una bomba sociale, è vero? È vero. Eh? È così. Cantone dice che la criminalità ormai a Napoli è così organizzata che risolve tutti i problemi senza neanche più il bisogno di minacciare. No, tutti i problemi no, ma Cantone nella sostanza dice una cosa giusta, e cioè che la camorra sostituisce lo Stato dove in tante attività che dovrebbero essere competenza dello stesso Stato. Senta, ma Zanotelli dice anche che c'è una città bene, è una degradata, che non si vogliono incontrare, è vero? È l'immagine delle due città, molto classica. Per me a Napoli ci sono 10, 20, 50 città, e quelle bene e quelle disperate non stanno una da una parte e l'altra dall'altra, non stanno tra Chiaia e Scampia. Spesso le diverse Napoli si mescolano e vivono negli stessi quartieri. Questa è la Napoli di oggi. Senta, questo venerdì a Cuba, per la prima volta un pontefice, Papa Francesco, incontrerà un patriarca russo ortodosso, Kirill. Per lei che significato ha questo incontro, se ce l'ha? Un grande significato, è uno dei segni di un mondo che cambia. Cioè un segno profondo un di un segno questo... profondo di un mondo che cambia. Ma in che direzione? In una direzione positiva, nettamente positiva, questo. Ma lei crede in Dio? Io sono un laico, e con miei sentimenti, e poi ho una particolare devozione per San Gennaro. Questo immaginavo. Senta, tornando a Napoli, alle parole di padre Zanotelli, cosa pensa, come pensa lei di farle dialogare questa Napoli che è bene e questa Napoli dei ricchi, cioè con quella dei poveri? Come si può organizzare questo dialogo? Risvegliando un senso di comunità. L'errore grande di De Magistris è di dividere la città, di scassarla, come lui dice. Ma a Napoli scassare è la cosa più semplice da fare. È già scassata. La cosa più difficile, no, è ricomporre, ricucire gli strappi sociali, mettere assieme. Io ho fatto il sindaco. L'80% del proprio tempo a Napoli si dedica a mettere assieme le persone, a ricomporre, altro che a scassare. Senta, ma cosa si sente di dire a un giovane di 20 anni per convincerlo a restare a Napoli, a costruire la sua vita a Napoli? Che deve scattare di nuovo, come avvenne nel 1993 e oggi in altro modo, un sentimento di fiducia. Noi napoletani siamo capaci di fare cose terribili con l'autolesionismo, con il piangerci addosso, con mettere il mondo in negativo sulle nostre spalle. Ma quando scatta il sentimento giusto, siamo capaci di fare cose straordinarie. Io sto puntando molto a fare scattare questo sentimento di fiducia in noi stessi. Senta, Bassolino, ma se dopo le primarie dovesse vincere le elezioni e diventare sindaco, cosa farebbe come prima cosa quando entra a Palazzo San Giacomo? Due lettere subito. Una al Presidente del Consiglio per la cabina di regia su Bagnoli e una al Presidente Cantone per firmare assieme un protocollo di collaborazione sugli appalti, perché c'è bisogno di avere il massimo di trasparenza. Non è firmato ancora da parte del comune con l'autorità nazionale. Ah. Sono i primi due atti che si possono fare. Cioè De Magistris non ha firmato l'accordo con Cantone? Non c'è ancora attualmente. Ma prima o dopo aver ringraziato San Gennaro, a cui crede invece che credere a Dio? San Gennaro dentro di me sarà il mio primo ringraziamento. Atto pubblico. Senta, l'ultima domanda. Nel periodo buio della sua vita che c'è stato in questi anni, quanto si è sentito solo? Molto. Molto. Abbandonato da tanti, anche da tanti cresciuti attorno a me, e che poi ho visto contro di me e li vedo ancora addirittura contro di me in queste settimane, in questi giorni. Senta, un giorno Mitterrand mi ha detto che nessuno può diventare un leader politico se non ha fatto da solo la traversata del deserto. Per lei quella traversata è stata utile? Io l'ho fatta. Sì, ma è stata utile. Condor, molto utile. Comunque, che cosa le ha insegnato? Comunque vada questa battaglia elettorale, che bisogna anche saper soffrire, perché questo arricchisce dal punto di vista umano. Grazie. 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS è pubblicità. Mix 24. Allora Mario, fai un titolo, va? O Vulcano. O Vulcano. Bravissimo. Sai, stato... più sento quelli che hanno avuto una lunga esperienza politica e più vedo i giovani, diciamo, presentarsi a guidare varie amministrazioni e più penso ad avercene. Beh, l'esperienza conta. Esperienza però la freschezza anche. Senti, Giuseppe Balsamo scrive: San Gennaro si dissocia da Bassolini. Secondo me no. No, molto carino. Senti, secondo me no. Senti, mi fai la tua bolla? Sì. Allora, beh, questo è un gruppo leggendario, Parsons Project. Lui era il tecnico del suono dei Pink Floyd, per essere chiari. Senti, mai visto Sanremo? Sei pazzo. Ah, va bene, ok, allora andiamo avanti. Ci sarà la guerriera che sì, ti prego, fammi sentire un po' dopo. Fammi sentire un po' di Alan Parsons, dai. Oh, ma non è che non l'ho sentito per snobismo, è che ovviamente in quelle ore in cui io non lavoro, preferisco leggere, cercare raccontami la tua bolla, cercare i miei passatempi. Allora, la mia bolla è molto semplice, facciamo un volo negli Stati Uniti, sì. Perché c'è stato il voto in New Hampshire e sono state rispettate le previsioni, ti è piaciuto? Beh, interessante, sì, molto. Bernie Sanders, tu che pensi? Bernie Sanders penso che una caratteristica ce l'ha, a proposito del discorso che facevamo prima, che tiene insieme i nonni e i nipoti. Vedi che riesce a agganciare i giovani pur essendo una persona di una certa età. Però è interessante, anche a me colpisce questo. Quindi, non so se vincerà, solitamente chi non vince ha la macchina di potere che c'ha dietro Hillary Clinton. Sì, però... e poi chi vince il New Hampshire non, vale niente, non vince le elezioni finali, quindi le presidenziali. Però c'è un clima interessante negli Stati Uniti, c'è una ripresa che tutti considerano robusta, ma i mercati vanno male. Malissimo. E c'è una 2 giorni molto importante oggi per capire, o meglio per cercare vedere di capire, cosa fa la Yellen. Sì, vedere cosa fa la Yellen, cioè il capo numero uno della Fed, la Janet Yellen, che oggi e domani testimonia, come suol dirsi tecnicamente, davanti al Congresso. Allora, molti analisti pensano che il rialzo dei tassi deciso a dicembre sia stato un errore. Tu cosa pensi? Non lo so, io non mi sento in grado di avere un'opinione definita, però certamente se il risultato è quello che sta capitando è stata una tragedia, non un errore. Infatti bisogna sempre controllare, come si dice, i fatti dei buoni giornalisti. I fatti sono quelli che vediamo, cioè c'è un percorso molto negativo della borsa nel mese di gennaio. Naturalmente non è tutto dovuto a questo, però tutti stanno guardando appunto come risponderà alle domande del Congresso. Ci sono 5 punti suggeriti da tutti gli analisti, li potete trovare in molti giornali, che sono la volatilità dei mercati, come dicevamo, l'inflazione che è molto bassa, quindi c'è il problema contrario, la deflazione, il rialzo dei tassi che doveva essere appunto a marzo, ma con questi chiari di luna forse non ci sarà. Gli stress test delle banche americane in questo caso e naturalmente le proiezioni della crescita. Una cosa comunque che colpisce molto è il Padoan 1 e Padoan 2. Ah, sentiamolo. Cioè che dice quello che dice il Bail-in e poi quello che va a dire il Bail-in va ripensato sulle banche e anche il Visco 1, Visco 2 dei problemi li abbiamo. Salamino, ne abbiamo attraversate di tempeste, quante prove antiche e dure. Prima che cominci un nuovo vortice di storia, prima che la cronaca confonda la cognizione dei segni dell'Eterno, raccomando all'ascoltatore di volgere il sentimento di un istante, uno solo, a ricordo di padre Pavel Flareschi, scienziato, sacerdote e santo. In un pomeriggio sottratto al tempo, nel 1937, a San Pietroburgo, all'epoca rinominata Leningrado, in un bosco vicino alla città, in piedi davanti alla fossa comune, Flareschi attende il colpo alla nuca. «Quando vi sentirete tristi», scriveva, «guardate l'azzurro del cielo, ed è ben più che una preghiera, è un bussare alla porta del cuore, è il sostare presso l'inviolato». La parola è pane in Flareschi, pane che si fa carne, carne che vapora in preghiera, stomaco che si eleva nello pneuma dello spirito, e neppure il più cieco tra gli atei, così spiegava padre Pavel, può negare la seconda legge della termodinamica. Ciò che appare come un fatto fisico deve essere spiegato attraverso le forze dello spirito. Mosca è stata arsa da una candela dal valore di un copeco. E padre Pavel, fedele all'ortodossia di Russia, spiega, a dispetto di chi presuppone segretamente l'inconciliabilità tra Dio e il mondo, che il culto a Dio non è uno spettacolo su un palcoscenico, ma la rivelazione di un altro strato nella nostra sfera dell'essere. E nella pronuncia della parola c'è il più insondabile tra gli smottamenti di questo stesso essere. Le nuvole non possono annientare il sole. E come dice Pietrangelo, stiamo per assistere a un nuovo vortice della storia. C'è già. Credo che non ci sia un modo migliore per definire l'incontro fissato per domani tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca e Kirill. A quasi 1000 anni dallo scisma, per la prima volta un vescovo di Roma, un vescovo della cosiddetta Terza Roma, si incontreranno. Non solo si incontreranno, ma si parleranno, e quindi la parola avrà quel peso che dice Pietrangelo, e il simbolico abbraccio avverrà a Cuba. Che significato ha questa scelta di Cuba, secondo te, Mario, che mi sembra molto profetica? Campo neutro, tanto per cominciare. Ma neutro, insomma, no? Fino a un certo punto. Beh, però è neutro. Io lo vedo come un campo di sintesi, perché Cuba è il luogo dove è un luogo dell'America Latina, quindi un luogo di Francesco, un luogo amico della Russia, quindi anche un po' russo, è un luogo dello sgelamento dei rapporti con l'Occidente, insomma tante cose. E quindi neutro, perché alla fine non dà. La sintesi è neutra. E quindi neutro, perché alla fine non dà. Comunque di questo da nessuno da pensare. Ne parleremo domani in modo approfondito. Per adesso vai con un'altra bolla, Mario. Sì. Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Allora, vabbè, questi sono i Daft Punk, Doing It Right, un bellissimo pezzo nell'album un paio d'anni fa, ma noi speriamo di vederne un altro presto, perché questo è un capolavoro, vero? Sentite. Everybody will be dancing and be feeling it right. Che suono. No, prima di fare la bolla mi è arrivato un push, una notizia al volo sul telefonino delle Figaro, che leggo. La Corte dei Conti francese controlla il bilancio pubblico e dice che i teatri sono troppo cari e sovvenzionati, il prezzo delle sigarette non va bene e ci sono truffe nei trasporti. Sembra l'Italia. Mi è venuto in mente. E allora? E invece io ti faccio una domanda. Secondo te il robot può guidare? Certo. Bravo. Sicuramente. Tu pensi che possa guidare? È legalmente un autista, secondo te? Legalmente e anche semanticamente. Quindi tutte e due le cose. Sì. Lo è anche per, diciamo così, l'autorità dei trasporti americana, che ha dato a Google, quindi parliamo di auto in realtà senza pilota, o meglio pilotate, guidate dall'intelligenza artificiale, e ha dato a Google, l'autorità americana, una risposta che dice sì, il driver artificiale e può essere uno legalmente riconosciuto a guidare. Ora questa cosa è interessante, potete immaginare che cosa scatena, nel senso che cambia totalmente il concetto giuridico di chi è al volante. Non è più una persona, ma è un oggetto fatto di intelligenza artificiale, o addirittura un non oggetto, potrebbe essere un non oggetto fatto da molti sensori, per esempio, che ha la responsabilità legale di questa cosa, quindi è giuridicamente riconosciuto. Siamo in come dire, in pieno climax da sci-fi, da science fiction, direi. Però è tutto vero, è tutto vero. Vabbè, quindi, fa impressione. Ai robot, cari. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Adesso c'è una nuova storia di coraggio, di cambiamento, per mostrare il lato meno raccontato del paese, e che come sempre arriva dalla rete di Italia che cambia. Alessandra Fiori ha intervistato un altro dei nostri agenti del cambiamento. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Il biologico non è più di nicchia, sempre più spesso sembra rappresentare il futuro, soprattutto per le piccole e medie imprese agroalimentari, ma non solo per quelle. Piero Manzotti era un imprenditore nel settore del biologico, si occupava di cibo, aveva un ristorante, è stato tra i primi a fare la cioccolata bio in Italia e poi nel 2003 ad Ancona ha fondato Tea Natura, che produce prodotti naturali ma di tipo diverso, dai detergenti alla cosmesi, che rispettano l'ambiente, come per esempio i detersivi a chilometro zero. Piero Manzotti, ma che cosa si intende per detersivi a chilometro zero? Si intende, quando è possibile, utilizzare materie prime che siano locali. Molte delle materie prime oggi vengono prodotti dall'olivicocco, poi lavorati qua in Italia e trasformati in materie prime da utilizzare in un detersivo. Possono essere materie prime più inquinanti o meno inquinanti. Noi stiamo cercando di utilizzare materie prime locali, quindi olio d'oliva di scarto, oppure anche olio di colza coltivato qua nelle Marche, per fare dei nostri detersivi. Ma voi state cercando di fare anche il ridetersivo? Il ridetersivo ha questo nome perché è il primo detersivo che viene prodotto con il 50% di oli post consumo, quindi oli di frittura recuperati dalle famiglie e, dopo opportune filtrazioni, trasformato in tensioattivo. Quindi un prodotto potenzialmente molto pericoloso per l'ambiente, perché sappiamo che molte amministrazioni non fanno ritiro di oli esausti. Molte persone devono purtroppo buttare i loro oli di frittura nel lavandino, nel water oppure nell'ambiente addirittura. Noi cerchiamo di spingere il recupero, ridargli dignità di materia prima da utilizzare nella detergenza. Con un opportuno trattamento di saponificazione, quel prodotto può diventare una base di detersivo completamente biodegradabile, perché la saponificazione rompe le cellule del grasso e le trasforma in qualche cosa che lava. Ma la produzione di prodotti come questo, con un impatto ambientale molto ridotto, ha però costi più alti? In generale i costi sono dovuti al fatto che le filiere sono ancora molto più piccole. Io dico sempre che quando da Tea esce una goccia di detersivo, dai vari centri commerciali ne esce una petroliera. Quindi voglio dire, l'impatto che viene fatto da detersivi che non hanno le stesse attenzioni è grande. Oggi il destino di un'azienda, per come siamo abituati a considerarlo, è crescere, espandersi o in alternativa morire. La sua storia però racconta il contrario. Quindi lei cosa si augura per Tea Natura? Mio padre mi ha insegnato una cosa, che il profitto per un'azienda non è l'obiettivo. La crescita di un'azienda è la conseguenza della qualità di ciò che propone. Io non mi auguro che Tea diventi una multinazionale con il capannone enorme. Io mi auguro possano crearsi tante piccole Tee nel territorio nazionale. Non crediamo nell'economia quella che ci stanno proponendo adesso. Crediamo in un'economia in cui il consumatore faccia parte del progetto economico di un'azienda e non ne sia tenuto fuori. Grazie Piero Manzotti, Tea Natura. Per altre informazioni sulla realtà di Italia che cambia, www.italiachecambia.org. Mario, Sì. Il tuo racconto sul robot ha fatto presa. Roberto da Latina dice: ma quando metteranno un robot alla guida del paese? Forse avremo più speranza di ripresa. Vabbè, non e è cosa sicuro. Ne sa lui che non siamo già guidati dai robot? Addirittura. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Da qui, da Ventotene, vogliamo dire con molta forza, con molta decisione, con molta tenacia e con molto coraggio che chi vuole distruggere Schengen vuole distruggere l'Europa, e noi italiani non glielo permetteremo. Ma lo vogliamo dire innanzitutto sapendo che questo luogo è il simbolo della loro miopia. Il simbolo della loro miopia, così a Ventotene il presidente Renzi, riferendosi alle più alte istituzioni europee. L'omaggio alla memoria di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, che nell'agosto del 41 scrivono con Ursula Hirschemann il manifesto per un'Europa unita. Poi una promessa: il restauro del carcere che ha ospitato gli antifascisti italiani e la creazione di un centro studi sull'Europa. L'Europa unita, la difficile nascita di un sogno, un cammino lungo e controverso che inizia con i trattati di Roma e la nascita della Comunità Economica Europea. I testimoni, i documenti, i segreti. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mix 24. Mario, c'è ancora una bolla? Sì. Allora, vabbè, si è solo accennati Super Tram, It's Raining Again, e sta piovendo, e vi segnalo per le cose che contano, per le cose che impattano, per le cose che hanno e danno senso alla nostra vita quotidiana, e poi ci accorgiamo improvvisamente che hanno preso una decisione. Ebbene, oggi e domani si riuniscono i ministri della difesa della NATO. In agenda c'è un intervento in un quadrante che va dalle coste della Turchia alla Grecia fino al Mediterraneo che ci sta davanti. Ricordo a tutti che in realtà, come sta emergendo chiaramente, è emerso anche dai colloqui di Obama e Mattarella, si sta preparando un intervento in Libia entro l'estate. Questo è quindi, quello che ripetiamo quasi tutti quindi i giorni. Nell'agenda globale che impatta sul locale, oggi e domani Yellen al molto congresso importante. Quindi la Fed e i ministri della difesa della NATO invece riuniti qua in Europa. Vediamo che cosa succede. Bene, intanto ascoltiamo il professor Roberto Bernabei che ci commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, gennaio 2016. Previsione e prevenzione collegate al patrimonio genetico. Oramai la sequenzazione del genoma è possibile e anche a costi abbordabili, cioè sapere qual è esattamente il nostro patrimonio genetico. E allora in questo lavoro di Annals of Internal Medicine si è valutata la stressabilità dell'essere informati di quale è il nostro patrimonio genetico e soprattutto se ci viene detto che abbiamo qualche variante genetica che può deportare a malattia. E si è preso come esempio la presenza dell'allele 4 di ApoE. Non vi sto a entrare nel dettaglio, semplicemente è un pezzetto di gene che, se presente, è associato con la possibilità di insorgenza di demenza di Alzheimer o di cardiopatia ischemica. La notizia era poco stressante quando si dava la notizia dell'associazione dell'Alzheimer, ma lo diventava molto di più quando si diceva che non solo c'era la possibilità di averci la malattia di Alzheimer se possessori di questo allele 4 di ApoE, ma anche se si diceva che c'era la possibilità di averci una cardiopatia ischemica. Quindi il problema è di come dare la notizia e di soprattutto essere attenti a quanto l'informazione genetica predisce o ti informa che puoi prevenire quello che ti viene predetto. Se ti viene detto che hai un qualche cosa dove la previsione è comunque bassa, forse è meglio non dirlo. In questo caso, averci l'ApoE e averci poi la malattia di Alzheimer non è una cosa matematica certa. È possibile, ma è possibile in una piccola parte dei casi. Quindi gli autori dicono è inutile fare troppa confusione e dire al paziente, alla persona che ha questa possibilità. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto oggi per noi? Oggi ho scelto una canzone di Sanremo che è stata presentata nel 1966 dai Vazzanicchi e poi ripresentata da Luca Madonia nel 2011. È una canzone su un addio, su un vero addio. La notte dell'addio, neppure una parola, tu contro il petto mio, non vuoi restare sola. Io ti prometto, amore, che mi ricorderò del bene che mi hai dato, del bene che ti ho dato. Addio, come un filo che si spezza. Dentro intorno.